Idea islamica della vita e della morale. La visione islamica della vita dell'uomo e del mondo è creazionista e si fonda sulle informazioni date dallo stesso creatore, il Dio. Tutto l'universo diverso dall'uomo obbedisce alle leggi di esistenza date dal creatore in modo meccanicistico, mentre l'uomo si realizza come tale solo obbedendo volontariamente al codice di vita che il creatore gli ha dato come mezzo per realizzare la sua condizione umana e lo scopo della sua esistenza terrena. Questo codice stabilisce i comportamenti che l'uomo deve tenere verso il suo creatore, verso le altre creature umane, verso le creature non umane e verso l'ambiente. L'uomo, però, può disobbedire al suo creatore, assoggettandosi a regole che vengono da altri che lui. Il codice di vita per la creatura umana è stato fatto scendere per mezzo di apostoli e messaggeri che il creatore, il Dio, ha suscitato nei diversi tempi della storia umana, in diversi luoghi, in mezzo ai vari popoli e tramite alcuni di loro ha rivelato i suoi libri. L'ultimo e definitivo libro che ha per destinatari tutti gli uomini è il sublime Corano, e l'ultimo profeta e apostolo fu Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Ne consegue che gli uomini della terra nell'era post-coranica hanno il dovere di attingere le norme di vita in cui realizzare la loro autentica dimensione umana nel sublime Corano e nella nobile Sunna.